Il punto di Stefano Folli. Per noi europei del sud la notizia peggiore sarebbe stata l'ingresso nel Parlamento tedesco del partito anti-euro, che avrebbe condizionato la politica europea di Berlino nel senso di una maggiore intransigenza. Così stando le cose, il grande successo di Angela Merkel promette una linea di continuità con il recente passato. Non è proprio confortante, ma è il male minore, anche perché la vittoria è costata qualcosa alla cancelliera. Intanto il suo storico partner, il Partito Liberale, è rimasto fuori, è la fine di un ciclo, con tutte le incognite del caso. Ora la CDU deve cercare l'alleanza con la socialdemocrazia, o magari chissà con i Verdi. Una grande coalizione a Berlino sarà da vedere per capire quanta coesione politica riuscirà a dimostrare e insomma in che misura potrà essere diversa e più efficace delle nostre estenuate larghe intese. Di sicuro qualcosa è cambiato negli scenari tedeschi. Sarebbe interesse degli altri paesi dell'Unione, a cominciare dall'Italia, verificare se e come è possibile trarre vantaggio dalla nuova situazione.